Questo non è certamente una prova di forza, ma è semplicemente un dibattito fra coloro che hanno fondato un partito insieme, consapevolmente, che ha avuto peraltro successo, il Popolo delle Libertà, scegliendo tra l'altro una denominazione che caratterizza la nostra vita, la nostra alleanza politica, quello della libertà. La casa del oggi è il Popolo delle Libertà, ma noi iniziamo nel 94 col Polo delle Libertà e del Buon Governo, di cui faceva parte Alleanza Nazionale, poi proseguimmo e non a caso con la Casa della Libertà e poi abbiamo fondato consapevolmente, su iniziativa di Silvio Berlusconi, ma con il nostro pieno consenso e certamente con quello di Gianfranco Fini, il Popolo della Libertà. E la libertà si basa innanzitutto sul rispetto degli altri, delle loro idee, e sul confronto libero tra le idee in un partito che fa riferimento ai valori fondamentali del Partito Popolare Europeo. Ma in ogni forza politica vi sono idee che si confrontano oggi in tutto l'Occidente, cioè nella Democrazia Cristiana tedesca, così come nel partito erede del gollismo. Pensiamo al confronto tra Chirac e Sarkozy, o se vogliamo pensiamo al confronto che c'è stato nel Partito Repubblicano Americano, cioè George W. Bush e McCain. Cioè il confronto delle idee non è che faceva parte soltanto della Prima Repubblica, fa parte di ogni Repubblica, di ogni democrazia, tanto più dei partiti occidentali che vivono, sottolineano, evidenziano il valore della libertà e quindi del confronto delle idee. Noi, Fini lo ha detto con chiarezza e in quel documento, noi vogliamo portare le idee nel dibattito. Altra cosa è fare le correnti. Innanzitutto ovviamente auspichiamo che il presidente del partito, che è anche il leader del partito, Silvio Berlusconi, il suo fondatore, accolga queste istanze nella direzione allargata ai gruppi che si svolgerà domani e quindi si possa uscire da quella direzione anche con un percorso pienamente unitario, perché questa è l'aspirazione di tutti, tanto più da chi, per esempio io, ho sempre lottato dal primo giorno di Alleanza Nazionale per la creazione di un unico grande partito di centrodestra, pagando un prezzo alto all'interno del mio partito, perché la maggior parte di coloro che erano per preservare l'identità, certo.